Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Potenziamento delle forze dell'ordine. Stanziamento di 126 milioni per la logistica, l'accoglienza e i mezzi. Riunioni bimestrali, Comitato Nazionale Ordine e Sicurezza Pubblica. Incremento del ruolo della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia. Certificazione antimafia per le imprese. Incremento dell'incisività delle decisioni del prefetto. Migliorare comunicazione e scambio di informazioni tra soggetti istituzionali. Favorire l'accesso e i controlli ai cantieri. Cooperazione internazionale fra le polizie. E aumentare i controlli di polizia sui territori dell'Expo. Questi sono i 10 punti stipulati e formalizzati nell'Expo Milano 2015 Mafia Free, un contratto firmato dal Ministero dell'Interno, dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano, nonché dall'Expo 2015 SPA. E Matte, direi che questo è un documento molto importante, dopo peraltro il patto d'intesa di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata di Lucciole nelle Tenebre. Innanzitutto benvenuti a tutti, io sono Camilla. Io sono Matteo. E questa è la nostra seconda puntata su Expo 2015. Nella puntata della settimana scorsa abbiamo voluto dare un'infarinatura generale sul tema dell'Expo. Sì, abbiamo parlato di cos'è l'Expo, di cosa vorrebbe portare in Italia, di cosa vorrebbe essere, nonché sì. di alcuni cenni storici e ci siamo fatti insomma un'idea generale di che cos'è Expo. Oggi invece parleremo di quello che si legge sui giornali, nostro malgrado, quello di cui si parla più spesso riguardo Expo sono le inchieste che troviamo spesso e volentieri all'ordine del giorno. A tal proposito dobbiamo ricordare cosa ha detto il presidente dell'Associazione Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, nonché magistrato che si occupa da molto tempo del tema. Riguardo la risoluzione del contratto in caso di corruzione, ha detto giustamente che questa regola avrebbe evitato tanti problemi che si sono verificati fino ad ora. Quindi il patto d'intesa è sicuramente un'ottima cosa, ma come giustamente è stato fatto notare, una sua formalizzazione in tempi più precoci avrebbe sicuramente reso più facile il lavoro di molti magistrati, di molti avvocati, e avrebbe probabilmente prevenuto molte delle inchieste che sono poi seguite. Ovviamente in tema Expo non poteva mancare l'infiltrazione delle mafie, specialmente l'andrangheta. Ma i casi di irregolarità che riguardano Expo e le attività strettamente connesse ad esso non riguardano solo la mafia, riguardano anche casi di corruzione e di appalti truccati. La prima inchiesta avviata in ordine cronologico è quella che risale a marzo 2014, si tratta dell'indagine ILSPA. L'ILSPA è una società per azioni che si occupa delle infrastrutture lombarde, è gestita direttamente dalla Regione Lombardia e quest'inchiesta si occupa di una serie di appalti ritenuti pilotati, appalti in merito chiaramente alle infrastrutture di Expo 2015. Nel corso di queste indagini sono finite in carcere 8 persone. A proposito di infrastrutture, Matte, mi hai recentemente parlato di un video molto interessante. Sì, su Repubblica recentemente ho notato un video molto carino riguardante la Brebemi, autostrada costruita appositamente e fa parte di queste infrastrutture di cui hai parlato prima, costruita appositamente per l'Expo. La seconda rilevante inchiesta che rispetto alla precedente 34 non migliora di granché la viabilità, in quanto i chilometri da percorrere sono di poco in meno. E i pedaggi sono molto superiori. Questa autostrada è infatti finita per diventare un'autostrada fantasma, a tal punto che alcuni ragazzi hanno girato un divertente video, nonché molto pericoloso a mio parere, durante il quale giocano una partita di calcetto su questa nuova autostrada Brebemi. Sono addirittura stati accusati di aver girato questo video durante la chiusura dell'autostrada mentre ciò non è vero e l'azienda autostradale si è semplicemente coperta dietro questa scusa. La seconda rilevante inchiesta, in ordine cronologico, risale a maggio 2014 e riguarda la cosiddetta cupola degli appalti. In questa inchiesta si parla di un giro di mazzette e appunto delle proposte di avanzamento di carriera che riguardano anche la Sanità Lombarda e Sogin. La procura ipotizza appunto questo giro di mazzette e queste proposte per l'aggiudicazione di appalti. Ma ricordiamo brevemente che cos'è Sogin. Si tratta della società italiana che si occupa dell'energia nucleare e in particolare dello smaltimento e della bonifica delle aree nucleari e dei rifiuti nucleari sul territorio italiano. Ora forse Camilla magari sarebbe meglio smorzare sì, i toni. Esatto. è il momento di un brano musicale. La scelta di questo brano, devo ammettere, è un po' tamarra e me ne prendo tutte le responsabilità. Si tratta di Left Eye e l'artista è Creation. Buon ascolto. Eccoci tornati in studio, continuiamo adesso con la nostra carrellata di inchieste. La terza inchiesta in ordine cronologico riguarda una parte rilevante dell'infrastruttura dell'Expo, la base, potremmo dire, la cosiddetta piastra. È l'infrastruttura più importante del sito espositivo e sarà affidata durante il luglio 2012 alla società dell'ingegner Mantovani, appunto Mantovani S.P.A., che rappresenta l'ossatura del sito e sarà completata in diverse fasi, partendo dall'est, proseguendo verso l'ovest. Questa infrastruttura consta di tre punti: opere idriche, percorsi e impianti tecnologici. Appunto, per quanto riguarda le opere idriche, Camilla, mi parlavi un po' prima delle vie d'acqua. Sì, c'è in progetto quest'idea piuttosto grandiosa di ripristinare gli antichi canali navigabili di Milano, le vie d'acqua appunto, per costituire degli spazi verdi, ciclabili e pedonali, nonché di rafforzare la viabilità su ruota e non, che colleghi l'intera città di Milano al sito espositivo dell'Expo. Proseguendo, risale a luglio 2014 l'avviso di garanzia al presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, accusato di induzione indebita a dare o promettere utilità e per presunte irregolarità in due contratti di collaborazione. Pare che questi contratti siano stati favoriti e agevolati per due ex collaboratrici del Viminale. Tramite pressioni ad esponenti di Eupolis ed Expo. E invece, durante l'ottobre 2014, i ROS dei Carabinieri hanno eseguito dei blitz nelle province di Milano, Como, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Sono 13 indagati accusati di associazioni di tipo mafioso, detenzione e porto abusivo di armi, intestazione fittizia di beni, riempiego di denaro di provenienza illecita, abuso d'ufficio, favoreggiamento e per ultimo minaccia. Al centro di queste indagini sono due gruppi dell'Ndrangheta radicati nel Comasco, con infiltrazioni nel tessuto economico lombardo. E questo sta a significare che non solo i politici e gli esponenti dell'imprenditoria lombarda e italiana hanno messo mano nelle tasche dell'Expo, ma anche l'Ndrangheta. Tutti sanno infatti che le cosche lendrine sono tra i gruppi mafiosi maggiormente presenti al nord e in particolare in Lombardia. Tra gli indagati vi è peraltro il presunto boss di questo gruppo ndranghetista operante in Lombardia, Giuseppe Galati, che grazie a un meccanismo di appalti e subappalti è riuscito a far affidare alla propria azienda alcuni dei lavori per Expo 2015 e ha addirittura ottenuto la certificazione antimafia, un requisito indispensabile per avviare dei lavori per la nuova tangenziale di Milano, uno dei lavori più redditizi in ambito di cantieri di Expo 2015. Ma direi che è arrivato il momento di un altro pezzo musicale. Sì, dai, stemperiamo un po' l'atmosfera e ora mandiamo un pezzo che ho scelto io, posso dirlo, l'ho scelto io. Puoi dirlo, per la prima volta, attenzione pubblico, gentile pubblico di Lucio nelle Tenebre, il brano scelto dal mio co-conduttore è Hey Ho dei Lumineers. I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Hey! I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong to you, you belong to me, you're my sweetheart. I belong to you, you belong to me, you're my sweetheart. Tornati in studio, vorremmo parlare di un movimento, il movimento No Expo, che al di là di tutte queste inchieste, di tutta questa corruzione da cui è riempita l'Expo, questo movimento vuole far capire che la spesa riguardante Expo 2015 fatta dallo Stato italiano e dalla Regione Lombardia, dal Comune di Milano, non potrà essere fruttuoso dal punto di vista economico, anzi potrà portare a grossi debiti che comunque in questo momento non fanno mai bene, ma in questo momento a maggior ragione. Ma non solo, i comitati, le associazioni, i centri sociali, gli attivisti del sindacalismo e la sinistra radicale, con lo slogan debito, cemento e precarietà, vogliono far conoscere le proprie ragioni contro Expo, tra cui il fatto che questo progetto è destinato a consumare suolo, a favorire la cementificazione e le speculazioni su un territorio di più di 500 km quadrati. Inoltre, l'avvio di Expo, secondo il movimento di cui stiamo parlando, non è stato scelto, non è stato proposto in modo democratico, e per di più, come diceva poco fa Matteo, una grossa spesa pubblica, pari circa 10 miliardi, è stata investita per questo progetto. Le altre critiche mosse a Expo 2015 sono l'offerta di 70.000 posti di lavoro, molti dei quali però precari, e la tendenza di questo progetto alla privatizzazione di molte aree pubbliche e alla gentrificazione. La gentrificazione è quel processo secondo il quale aree tradizionalmente popolari vengono vendute o affidate a imprese private, con il risultato che gli interessi di un'azienda privata finiscono per prevalere sul bene e sull'interesse comune. No Expo ha fatto anche delle iniziative a sostegno delle sue tesi. Innanzitutto nel 2007 ha presentato un controdossier nei confronti della candidatura di Milano. Nel 2009 ha criticato il piano regolatore generale. Nel 2010 un festival No Expo. Nel 2011 un No Expo Camp con le relative manifestazioni, campagne che sostenevano non solo la critica ad Expo, a questa grande opera potremmo definirla, ma anche a altre grandi opere come ad esempio il Mose di Venezia, la TAV, quindi sostegno ai NoTav, e la lotta per la casa. Ultimo ma non ultimo è il movimento No Fico, che si oppone a questo grande progetto previsto per la città di Bologna. Fico è un centro agroalimentare, un parco tematico dedicato al cibo. La sigla Fico sta per Fabbrica Italiana Contadina. Questo progetto è stato voluto da Oscar Farinetti, presidente di Italy, e Massimo Bottura, che è tra i più noti e celebri chef a livello internazionale. Il movimento No Fico, dunque, così come il movimento No Expo, critica la costruzione di queste grandi opere, la cui sostenibilità economica è, secondo questi movimenti, in dubbio. Ma quindi tu sei dalla parte di questi movimenti, quindi sei pro o contro l'Expo? Ma io penso che sia nel caso di Expo che nel caso di Fico sia giusto che ci siano dei movimenti di opposizione. La critica credo che non possa che essere costruttiva. E a questo proposito vi lasciamo con un ultimo brano musicale e ci diamo appuntamento alla prossima puntata. No. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Mes souvenirs. j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie. Benvenuti alla nostra consueta appuntamento con la rubrica Buffier, qui in studio Stefano e Eleonora. Di che cosa parliamo stavolta dopo la puntata scientifica? Allora, stasera parliamo di una cosa molto più culturale, tradizionale, che possono capire tutti e non soltanto i nerd scientifici. E stasera quindi parliamo di teatro, molto più tranquillo, no? Volevo parlare, come no? Mi interessa. Lo so, Ste, che ti interessa. Comunque, stasera parliamo di uno spettacolo particolare che ci sarà all'Arena del Sole qua a Bologna. I giorni saranno dal 4 al 7 dicembre ed è uno spettacolo che è realizzato dal teatro che si trova all'interno dell'Istituto Penale Minorile di Bologna. Fammici pensare, il Teatro del Pratello. Direi di sì, non ce ne sono così tanti qua a Bologna. È un teatro storico, diciamo un'iniziativa storica che parte dal 1998. In particolar modo l'Associazione del Teatro del Pratello ha organizzato appunto dei progetti teatrali all'interno del carcere minorile da molti anni. La particolarità di quest'anno che potremo trovare appunto i ragazzi del Pratello a recitare all'Arena del Sole, mentre gli anni scorsi hanno sempre recitato al Pratello appunto e hanno sempre fatto spettacoli aperti alla comunità. E quest'anno invece sarà uno spettacolo più tradizionale, sarà all'interno dell'Arena del Sole, in un contesto della Bologna bene, Bologna Radical Chic, che va a teatro. Beh sì, ma in realtà l'Arena del Sole, sfatiamo questo mito, a parte le prime non ci va la Bologna Radical Chic, come in tutti i teatri ci va la gente che è appassionata di teatro. No, infatti se ci andiamo noi ci può andare chiunque, direi, diciamo, rappresentiamo un po' i barboni. Sì. Anche benissimo. Perché io alle prime vado vestito come vado vestito tutti i giorni, non me ne importa niente. E vi assicuro che è imbarazzante. Sì, sono molto sfattone. Sì, penso che andrà la laurea in pigiama, quindi. No, comunque, no, voi dovete venire. Chi se ne frega della tua laurea? Gli frega non nessuno. Ci sarà mai. Comunque, parliamo di nuovo dello spettacolo. Lo spettacolo si chiama Chiamatemi Ismaele ed è tratto liberamente tratto dal Moby Dick di Melville ed è realizzato appunto da questa compagnia teatrale che ogni anno realizza spettacoli di diverso genere con i ragazzi che si trovano all'interno dell'Istituto Penale Minorile di Bologna e sviluppa l'attività su due ambiti: da un lato quello manuale creativo di creazione delle sceneggiature, dei costumi, delle scenografie, dall'altro nell'ambito chiaramente più teatrale di realizzazione dello spettacolo. Quindi è un'iniziativa molto bella che dà la possibilità ai ragazzi che si trovano al carcere minorile sia in questo caso in particolar modo di vedere l'esterno, sia di sviluppare anche un ambito culturale che in carcere tendenzialmente. Beh, uno sfogo comunque sia, perché teatro è anche sfogo. Sì. Se non sbaglio il regista è Paolo Billi. Sì, io non lo conosco molto bene, Paolo, tu lo conosci Billi, meglio? Io ci ho fatto uno spettacolo però da figurante e devo dire che è veramente bravo, nel senso che sprona a fare di più, sprona e a e ha un bel polso, secondo me, ed è molto esigente, però comunque sia anche molto umano. E quindi niente, vi consiglio. Facciamo anche critica di... critica teatrale adesso. Siamo molto versatili nei nostri ambiti di interesse. Comunque vi consiglio di andarla a vedere. Noi penso ci saremo tutti, quindi nel caso ci vedremo lì. Adesso vi lasciamo la nostra canzone. Misteriosa canzone. Misteriosa. E vi salutiamo. Ciao a tutti. Ciao. Never seen such good things go so wrong. Everywhere we turn, they're playing our song. Disgusting. Race to the end. Race to the end.